parliamo? Billy! Chi è che c'è su 10? Mi è sembrato. No. Vabbè. inizia l'inverno, c'è sbogliatori, poche nuda. Però belle giornate, come cresce l'Ebba, chi già lo sai, più Ebba vasi, più cresce l'Ebba. Ho voglia. Dicono che si fanno 3-4 taglie in tutto l'anno, poi. Ah beh certo. Mi viene male misurita che hai fatto tu, cazzo, perché era anche a torra. Ci ho venduto tutto, avanti, dovete andare di là che ci ho messi. Tu lì, io l'ho fatto per saggifla, ma non è da fare saggifla. Vabbè, tu ti hai fatto un po' di più. Io ho fatto... Quando l'incontura non toglie. Ho fatto un battè, se no non l'avevo fatto. Se non avevo chiamato, no, non meno di 100 euro gli avrei preso. Perché ci ho messo anche di scugliatore mio, capito? Io ti ho trattato bene. Non ho mai tenuto, sapete. No, volevo operare. Sto dicendo che... Come si dice? Ho fatto delle polpette in fuori di capo. Ma... Sto dicendo perché quella cifra lì non si poteva fare, troppo poco. Vabbè, siamo tutto a prendere, ma comunque sì, avrei messo ora che c'è un mezzo, forse anche di più li avrei preso. Sì, ma tu dovevi dirglielo proprio per essere matto, hai guardato il coso, quello che dovevi fare, gli dicevi, qua signora ci vuole tot, capito? Invece tu sei cagliato il mondo, ma di me non te ne frega niente, capito Luca? Vabbè, tu lì, lo sai, no, come funziona, così. Siamo quasi qua, spesso e volentieri, ti butti a bluva, così a blocco, no? Vabbè. Niente, quell'albero che tu mi hai tagliato qua a fianco, quello che tipo l'albero della felicità che è enorme, che se si rimbizzi in carriera si sia. Cazzo, quello già ti è diventato occhio. E va. Cazzo, ma un bene mi è cresciuto un bene. Immagino. Ma se taglio il tronco da sopra, come cacciatore faccio il fosso, che è possibile, cazzo. Ho un bene occhio. Ha superato quasi un palazzo a fianco. Quella cresce, maledetta. E allora, io ho fatto male, ho tagliare tutto, cazzo. Purtroppo gli alberi crescono. Che se la rovina un albero, cazzo. Tagliando Gesù Cristo. Vabbè. Quando? Ma devi stare ancora lì o devi andare via? Io te lo posso dire dopo che mi chiama il giudice. Perché so già, se mi passa un po' troppo per 4 anni, e allora, fecchia, bene cosa va, Luca. Allora va, mi sono fermato, che posso far nulla. Ehi. Ehi, c'è poco la ciliegina, è nata la dulca. Vabbè, a parte Ghisso, vuoi anche Ghisso che ha costruito, ho fatto una denuncia al procuratore della Repubblica. È una cosa un po' pesante. Attaglio, non ho visi. Di zizzura a me. Sono attaglio, ad esempio, la mezzanina di Novenissimo, non lo vedo però. E io l'ho chiamato pure prima, nulla. E pure Gianni Mattezzi. E io acceso, ascolto, sempre acceso, sì. Che fa? Beh, fate qualcosa, mangiare. Io dopo mi ho fatto un ragù ieri, buono, suo. Adesso mi sa che faccio un po' di spaghetti stasera, a chi faccio non fame. Oggi ho mangiato soltanto 3 fette melone, perché sono arrivato tardi, lui, e non avevo più fame, per questo ragazzo mangiare. Dai, rimango all'ascolto, io dai, se entro anche di noi, entro d'ora, se non fa dentro. Dai che mi preparo qualcosa. Perché ci sentiamo dopo, Tonida. Io sono proprio rilassato. Ho fatto la doccia, mi sono posto relax. Hai fatto bene, riposati che ne hai bisogno. Io ho bisogno di nulla, che ho qui pensione, quindi, e non mi c'è pure nulla. Mi, gli aziende si comprendono bene, abbassano l'asta, mi chiamano, però c'è anche questo vecchietto che mi chiama, faccio la spesa, cosa, mi alzo 20, 40 euro per la benzina e andava. Però c'è questo, che io vado a casa sua, che è in campagna, lascio la macchina mia e prendo la macchina sua, che entro un po' guidando, ho 84 anni, ed è nuova, la Ford Focus, calzata, bella. Ah, io la guidi tu. A me manda bene, è stato non si capisce nulla, oggi l'ho accompagnato via su paesi, mi ha fatto 40 euro, andava bene. Vabbè, l'ho accompagnato, non è proprio un bel. A me non hai pregato fino a casa sua. Se vado con la macchina sua, però poi la macchina mia dovrei tornare a casa mia, mi capito vicino a lui. Certo. Toni, quando vuoi picca fuori di lì? Meglio per già, che bella. Ok, dai, riposa Luca, ci sentiamo dopo, dai, mi rimango all'ascolto, che faccio cosa in cucina. Perché ti sei riso per non aggiungere a 2 anni? luci come se fumasse toffa, una specchiera in bagno, un quadro e una ciabatta gli ho piazzato. Vedeva giù molto, un'oretta, 40 euro. Andava pisa sempre, fratellini, anche intanto me. Se ti chiama solo le medie di manco, non ti chiama più. E vedi, tu fai, è cosa la roba, perché è così, è che capita. Poi se mai pure macchina, hai calcolato pure la benzina, anche la benzina cuccia, e la macchina aria non andrà. Beh, certo, allora, vabbè, sentiamo la punto lì. Buon, ok, d'accordo Luca, a dopo, ciao ciao. California da questa. California, Franco. Che raga, Radoni, sono Argentino, mi ascolti. Santiago del 7 è una radio di Super 5. Va bene, quindi a posto. Ehi, è poco così lontano. È l'importante che mi ascolti. A base più forte. Più forte, cioè attaccata a Gigetto. Ecco perché ho aumentato anche la radio. E quanto è il segnale adesso, Tony? Santiago 9, radio Super 5. E io sono Argentino alle Saline. Esce forte, dai. Ottima antenna, ottimo tutto. E l'antenna è un'antenna di trine, è un'antenna piccolina, capito? Ma ci va bene però, fra. Bene, l'importante è che mi ascolti. In quella zona ho detto, ma sicuramente le Sassari non mi ascoltano. No, che sono aperto per quella zona, capito? Già andrà bene, però se sollevo ancora altri 3 metri sono un bombo. Ma qua stai arrivando Santiago 95, 910 e Radio 5. Località Le Saline, io sono praticamente all'isolotto. Ehi, a voglia, anche forte stai arrivando, fra, come radio, come tutto. Non mi interessava se la radio va bene, anche il segnale, va bene, non è che posso pretendere più di tanto, capito? È leggermente satura, ma poco, perché ovviamente c'è la potenza sotto, capito? E ti rubo un po' di radio, ma è bella forte. E vabbè, la radio la posso anche abbassare, così dovrebbe andare meglio, guarda. Fa il passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Già va bene così, lascia così. Gava, gava, ok. Andrà bene. Poco fa stavo con Luca, ma non aveva nessuno nel suo canale. Allora, vera cosa, vera. Cioè, vera. Chi tu dici che non aveva nessuno, Natalino, e poi non aveva, la chiamata è nulla. Gianni Mattesi, non aveva. Vedi cosa vuoi ti dica. Vabbè, Tony, dai, mi assento un attimo e controllo il cane, riprendo dopo. Ciao. Ok, ci sentiamo dopo, salutami la tua 50. Ciao, ciao, fra. Ciao, Tony, ciao, ciao. Andiamo. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, bravo, Charlie Delta, otto. Natalino, allora, attenzione Natalino,